Capitolo 30 Le gemelle. Io so qualcosa che tu non sai, qualcosa che tu non sai, qualcosa che tu non sai, canticchiava Dovey Johnson mentre camminava ondeggiando avanti e indietro proprio sullo spigolo della banchina nel porto. Era la volta di Nan avere l'onore della ribalta, il suo turno ad aggiungere un racconto alti ricordi negli anni a venire di Ingleside. Anche se rammentarlo fino all'ultimo giorno della sua vita continuò a farla arrossire, quanto era stata sciocca. Nana aveva i brividi guardando Dovey ondeggiare, e però aveva il suo fascino, era così sicura che Dovey sarebbe caduta prima o poi, e allora che cosa? Ma niente, Dovey non cadeva, la sua fortuna continuava a reggere. Tutto quello che Dovey faceva o diceva, lei lo ripeteva, qualsiasi cosa fosse, magari due cose una all'opposto dell'altra, nonostante che Nan fosse cresciuta a Ingleside, dove nessuno aveva mai detto niente che non fosse stata la verità, nemmeno per scherzo. Ma era troppo innocente e credulona per capirlo. Era affascinata. Dovey, che aveva 11 anni, aveva sempre vissuto a Charlottetown e sapeva molte più cose di Nan, che ne aveva solo 8. Charlottetown, diceva Dovey, era l'unico posto dove la gente sapeva qualcosa. Che cosa si poteva conoscere isolati in un posto insignificante come Glen St. Mary? Dovey stava trascorrendo parte della sua vacanza con sua zia Ella nel Glen e lei e Nan avevano stretto un'amicizia molto intima nonostante la differenza d'età. Forse perché Nan ammirava Dovey, le sembrava quasi fosse un'adulta, con l'adorazione che abbiamo bisogno di dare al meglio di noi quando lo crediamo. O pensiamo di credere. A Dovey piaceva quell'umile e adorante piccolo satellite. Non c'è cattiveria in Nan Blythe, è solo una sempliciotta, disse a zia Ella. La vigile gente a Ingleside non aveva niente da ridire nei confronti di Dovey, anche se, come Anna pensò, sua madre era una cugina dei Pye di Avonlea e non fece obiezioni sull'amicizia di Nan con lei. Anche se Susan all'inizio diffidava di quegli occhi verdi uva spina con le loro pallide ciglia dorate, ma cosa vuoi? Dovey aveva delle buone maniere, ben vestita, signorile, non parlava troppo, e Susan, non sapendo fornire alcuna spiegazione logica per la sua diffidenza, non disse nulla. Dovey sarebbe tornata a casa con l'inizio della scuola e nel frattempo non ci sarebbe stato certamente bisogno, in questo caso, del pettine a denti fitti. Quindi Nana e Dovey trascorrevano la maggior parte del loro tempo libero insieme al molo, dove c'erano in genere una o due navi con le vele ripiegate e la Rainbow Valley quasi non vide Nan quell'agosto. Gli altri bambini di Ingleside non si interessavano di Dovey, anzi c'era dell'ostilità. Aveva fatto un brutto scherzo a Walter ed Dee, furiosa, gliene aveva dette 4. Dovey era, a quanto pareva, appassionata nel giocare brutti scherzi. Forse è per questo che nessuna delle ragazze del Glen aveva mai cercato di lusingarla e portarla via da Nan. Oh, per favore, dimmi, supplicò Nan. Ma Dovey si limitò a una maliziosa strizzata d'occhi, dicendo che era troppo giovane per poterle raccontare una cosa simile. Questo era veramente esasperante. Per favore, dimmi, Dovey. Impossibile, mi è stato raccontato in segreto da zia Kate e lei è morta. Io sono l'unica persona al mondo che lo sa adesso. Promisi quando me lo disse che non l'avrei raccontato a nessuno. Tu lo diresti a qualcuno, non potresti evitarlo. Oh no, io non lo farei, io potrei davvero, gridò Nan. La gente dice che voi di Ingleside vi raccontate tutto l'uno all'altra. Susan te lo tirerebbe fuori men che non si dica. Non è vero, conosco un sacco di cose che non ho mai detto a Susan. Ti dirò i miei segreti se tu mi dirai i tuoi. Oh, non mi interessano i segreti di una bambina piccola come te, disse Dovey. Proprio un bell'insulto. Nan pensava che i suoi segreti fossero meravigliosi, quello là di alcuni ciliegi dolci che aveva trovato in fiore nel bosco di abete rosso, lontano, dietro il fienile di Mr. Taylor, e il suo sogno di una minuscola bianca fata sdraiata sopra una foglia di ninfea nella palude. Aveva fantasticato di una barca che arrivava in porto, tirata da dei cigni attaccati a delle catene d'argento. Il romanzo che aveva cominciato a tessere riguardo la bella dama nella vecchia abitazione McAllister erano tutti veramente belli e magici per Nan e si sentì felice ripensandoci in seguito di non averli raccontati a Dovey dopo tutto. Ma Che cosa Dovi sapeva e lei invece no? Quella domanda ossessionava Nan come una zanzara. Il giorno dopo Dovi nuovamente fece riferimento al suo segreto. Stavo pensando, Nan, forse dovresti saperlo visto che è su di te. Ovviamente quello che zia Kate intendeva dire è che non dovevo parlarne con nessuno che non fosse la persona in questione. Senti, se mi dai quel cervo di porcellana, ti dirò quello che so di te. Oh, questo non posso dartelo, Dovi, me l'ha dato Susan. Per il mio ultimo compleanno sarebbe terribile ferire i suoi sentimenti. Va bene, allora. Se preferisci avere il tuo vecchio cervo invece di sapere una cosa importante che ti riguarda, te lo puoi tenere. Non mi interessa. Preferisco tenermi il segreto. Mi piace sempre sapere cose su altre ragazze che loro non sanno. Ti rende importante. Io ti guarderò domenica prossima in chiesa pensando, ah, se solo tu sapessi quello che so io su di te, Nan Blythe. Sarà divertente. Quello che sai su di me è carino? Domandò Nan. Oh, è molto romantico, proprio come quello che si legge nei libri di fiabe. Ma non importa, a te non interessa e io so quello che so. A quel punto Nan era pazza di curiosità. La vita non sarebbe stata degna di essere vissuta se lei non avesse potuto sapere la cosa misteriosa che Dovi conosceva. Ebbe un'improvvisa ispirazione. Dovi, non posso darti il mio cervo, ma se mi dirai quello che sai su di me, ti darò il mio parasole rosso. Gli occhi uva spina di Dovi brillarono. Era divorata dall'invidia per quel parasole. Il nuovo parasole rosso che tua madre ti ha portato dalla città la settimana scorsa? Contrattò. Nan annuì. Il suo respiro aumentò rapidamente. Era. Oh, era possibile che Dovi davvero le avrebbe raccontato il suo segreto? Tua madre te lo permetterà? Richiese Dovi. Nan annuì di nuovo, ma con una piccola incertezza. Non era troppo sicura. Dovi percepì l'incertezza. Dovrai portare quel parasole proprio qui, disse con fermezza, prima che ti possa raccontare. Niente parasole, niente segreto. Te lo porterò domani, si affrettò a promettere Nan. Doveva proprio sapere quello che Dovi sapeva di lei, era l'unica cosa che importava. Beh, ci penserò, disse Dovi senza convinzione. Non farti troppe illusioni, alla fine io non mi aspetterei che ti venga detto. Sei troppo giovane, come ti ho ripetuto più volte. Sono più vecchia di quello che ero ieri, supplicò Nan. Oh, andiamo, Dovi, non essere meschina. Ritengo di avere il diritto di tenermi quello che so, disse Dovi in modo categorico. Lo racconterai ad Anna? Quella è tua madre? Certo che conosco il nome di mia madre, disse Nan con un briciolo della sua dignità. Segreti o non segreti, c'era un limite a tutto. Ti ho detto che non lo dirò a nessuno a Ingleside. Lo giurerai? Giurarlo? Non parlare come un pappagallo, naturalmente intendo una promessa solenne. Prometto, solennemente. Deve essere più solenne. Nan non aveva idea di come fare per essere ancora più solenne. Potrebbe essere forse atteggiando la faccia. Stringi le mani, guarda il cielo e di' giurin giurello, disse Dovi. Nan portò a termine il rituale. Bene, domani porta il parasole e vedremo, disse Dovi. Che cosa faceva tua madre prima di sposarsi, Nan? Ha insegnato in una scuola. E insegnava bene, disse Nan. Beh, tanto per chiedere, mia madre pensa che sia stato un errore per tuo padre sposarla. Nessuno sa nulla della sua famiglia. Mia madre dice che avrebbe potuto avere tutte le ragazze che voleva. Devo andare adesso. Au revoir. Nan sapeva che significava fino a domani. Era molto orgogliosa di avere un'amica che parlava francese. Restò a lungo seduta sul pontile dopo che Dovi era andata a casa. Le piaceva stare sul molo a guardare le barche dei pescatori, entrare e uscire, e qualche volta una nave che salpava giù dal porto diretta verso terre lontane. Come Jem aveva spesso desiderato andare via su una nave, lasciare l'azzurro porto, passare la barra di sabbia con le sue scure dune, oltre il limite del faro dove di notte la lampeggiante Four Winds diventava un avamposto di mistero, fuori, fuori nell'azzurra nebbia come era nel golfo d'estate, su verso incantate isole in mari dal mattino dorato. Nan volava sulle ali della sua immaginazione, in tutto il mondo, mentre era accovacciata lì su quel vecchio cadente molo. Ma quel pomeriggio era tutta agitata per il segreto di Dovi. Davvero Dovi gliel'avrebbe detto? Che cos'era? Che cosa poteva essere? E che cos'era quella cosa delle ragazze con le quali papà avrebbe potuto sposarsi? Nan meditò circa quelle ragazze. Una di loro avrebbe potuto essere sua madre, ma questo era orribile. Nessuna poteva essere la sua mamma, tranne la mamma. La cosa era semplicemente impensabile. Penso che Dovi Johnson mi dirà un segreto, confidò Nan alla mamma quella sera mentre stava ricevendo il bacio della buonanotte. Naturalmente non potrò dirlo neppure a te, mamma, perché ho promesso che non l'avrei fatto. Non ti importa, è vero, mamma? Oh, niente affatto, disse Anna molto divertita. Quando il giorno dopo Nan andò giù al molo, prese con sé il suo parasole. Era il suo parasole, si disse. L'era stato dato, quindi aveva tutto il diritto di farne ciò che voleva. Dopo aver acquietato la sua coscienza con quel sofisma, scivolò via, intanto che nessuno poteva vederla. Le dispiaceva regalare il suo prezioso, allegro, piccolo parasole, ma in quel momento la disperazione di verificare quello che Dovi sapeva era diventata troppo forte per poter resistere. Ecco il parasole, Dovi, disse affannosamente. Ora raccontami il segreto. Dovi fu presa veramente alla sprovvista. Non aveva mai immaginato che le cose potessero arrivare a quel punto. Mai aveva pensato che la madre di Nan Blythe le permettesse di dare via il suo parasole rosso. Increspò le labbra. Non so se questa tonalità di rosso vada bene con la mia carnagione, dopo tutto. È piuttosto vistoso, mi sa che non ti dirò niente. Nan aveva un suo proprio carattere e Dovi ancora non l'aveva soggiogata abbastanza per affondarla in una cieca sottomissione. Niente la scuoteva più velocemente di un'ingiustizia. Un patto è un patto, Dovi Johnson. Hai detto il parasole per il segreto. Ecco il parasole e devi mantenere la tua promessa. Oh, molto bene, disse Dovi in modo annoiato. Ogni cosa divenne silenziosa. Le raffiche di vento si affievolirono. Si fermò lo sciabordio dell'acqua attorno ai pali del molo. Nan tremò per una deliziosa sensazione di estasi. Stava per scoprire finalmente quanto sapeva Dovi. Conosci Jimmy Thomas giù a Harbour Mouth? Disse Dovi. Sei dita dei piedi, Jimmy Thomas? Nan annuì. Naturalmente conosceva i Thomas, almeno sapeva di loro. Sei dita Jimmy andava a volte a Ingleside a vendere il pesce. Susan diceva che da lui non era mai sicura di ottenere qualcosa di buono. A Nan non piaceva il suo aspetto, era calvo, con una lanugine di ricci e bianchi capelli su entrambi i lati della testa. E un naso adunque rosso. Ma che cosa i Thomas avessero a che fare con l'argomento? E conosci Cassie Thomas? Continuò Dovi. Nan aveva visto Cassie Thomas una volta quando Sei Dita Jimmy l'aveva portata in giro con lui sul suo carro del pesce. Cassie aveva più o meno la sua stessa età, con una zazzera di riccioli rossi e degli impudenti occhi grigio-verde. Aveva tirato fuori la lingua, Nan. Beh, Dovi trasse un lungo respiro. Questa è la verità su di te. Tu sei Cassie Thomas e lei è Nan Blythe. Nan fissò Dovi. Non aveva la minima idea di quello che Dovi volesse dire. Quello che aveva detto non aveva senso. Io? Che cosa vuoi dire? È abbastanza chiaro, mi sembra, disse Dovi con un sorriso di compassione. Poiché era stata costretta a raccontare, aveva intenzione di fare in modo che fosse una storia che ne valesse la pena. Tu e lei siete nate la stessa notte. Fu quando i Thomas vivevano nel Glen. La balia prese la gemella di Dee, scese dai Thomas, la mise nella culla e portò te indietro alla madre di Dee. Non osò prendere pure Dee, ma l'avrebbe fatto. Odiava tua madre e l'ha fatto per vendicarsi. Ed ecco perché sei davvero Cassie Thomas e dovresti vivere laggiù, a Harbour Mouth, e la povera Cass dovrebbe essere sua Ingleside, invece di essere maltrattata da quella sua vecchia matrigna. Mi sono sentita così triste per lei più di una volta. Nan, credette a ogni parola di quell'insensata storia. Nessuno le aveva mai mentito in vita sua e neanche per un attimo aveva dubitato della veridicità del racconto di Dovi. Non le era mai accaduto che qualcuno, tantomeno la sua adorata Dovi, volesse o potesse inventare una tale storia. Restò a fissare Dovi con occhi pieni di angoscia e delusione. E come ha fatto tua zia Kate a scoprirlo? ansimò attraverso le labbra secche. Glielo raccontò la balia dal suo letto di morte, disse solennemente Dovi. Suppongo che le rimordesse la coscienza. Zia Kate non l'ha detto a nessuno, solo a me. Quando sono arrivata al Glen e ho visto Cassie Thomas, Nan Blythe, voglio dire, la guardai proprio bene, ha i capelli rossi e gli occhi dello stesso colore di tua madre. Tu hai gli occhi marroni e i capelli castani? È per questo che non assomiglia a Dee. Le gemelle sono sempre identiche. Cass ha proprio lo stesso tipo di orecchie di tuo padre, sistemate così bene e piatte contro la testa. Penso che non si possa fare nulla adesso, ma ho spesso pensato che non è giusto che tu te la passi tanto bene e sei tenuta come una bambola mentre la povera Cass, Nan, ha solo stracci e tante volte non ha nemmeno abbastanza da mangiare. Il vecchio sei dita la picchia quando torna a casa ubriaco. Ecco, cos'hai che mi guardi in quella maniera? Il dolore di Nan era più forte di quello che potesse sopportare. Tutto le era orribilmente chiaro. Alla gente era sempre sembrato buffo che lei e Dee non si assomigliassero in niente. Era per quel motivo. Ti odio per avermi raccontato questo, Dovi Johnson. Dovi alzò le sue grasse spalle. Non ti ho detto che ti sarebbe piaciuto, vero? Tu hai voluto che lo raccontassi. Ma dove stai andando adesso? Poiché Nan, bianca con le vertigini, si era alzata in piedi. A casa, per dirlo alla mamma, disse miseramente. Tu non devi, non osare, ricordati che hai giurato che non l'avresti detto, gridò Dovi. Nan la fissò. Era vero, aveva promesso di non dirlo e la mamma diceva sempre che non si deve rompere una promessa. Credo che andrò a casa anch'io, disse Dovi. Nel complesso non era contenta dell'aspetto di Nan. Afferrò il parasole e scappò via. Le sue gambe nude e grassocce in un attimo percorsero il vecchio molo. Dietro di lei aveva lasciato una bambina con il cuore spezzato, seduta tra le rovine del suo piccolo universo. A Dovi non importava. Sempliciotta non era un termine adatto per Nani, in realtà non era stato molto divertente ingannarla. Naturalmente avrebbe detto tutto a sua madre, non appena tornata a casa e scoperto che era tutto uno scherzo. Ah, oh, meno male che vado via domenica, rifletté Dovi. Nan rimase seduta sul molo per quello che le sembrarono ore, cieca, schiacciata, disperata. Non era figlia della mamma, era una bambina di sei dita Jimmy. Sei dita Jimmy verso il quale aveva sempre avuto un segreto terrore solo a causa delle sue sei dita dei piedi. Non aveva diritto di vivere a Ingleside, amata da mamma e papà. Oh, fu l'infelice piccolo gemito di Nan. Se mamma e papà lo sapessero, non l'amerebbero più. Tutto il loro amore sarebbe andato a Cassie Thomas. Nan mise una mano sulla fronte. Mi gira la testa, disse. Capitolo 31. Una sciocca eroina. Qual è la ragione per cui non mangi niente, cocchina? Domandò Susan a tavola durante la cena. Sei stata fuori troppo a lungo, al sole, cara? Chiese ansiosa la mamma. Ti fa male la testa? Sì, disse Nan, ma non era la testa che le doleva. Stava raccontando una bugia alla mamma, e se sì, quante altre ne avrebbe dovute dire? Poiché Nan sapeva che non sarebbe mai stata in grado di mangiare di nuovo, mai, mai, mai, finché quella terribile cosa che sapeva era sua. E sapeva che non avrebbe mai potuto dirla alla mamma, non tanto a causa della promessa. Susan non aveva detto una volta che una brutta promessa era meglio romperla che conservarla, ma perché avrebbe fatto del male alla mamma. In qualche modo Nan sapeva, senza nessun dubbio, che avrebbe ferito orribilmente la mamma. E la mamma non deve, non deve assolutamente essere ferita, e neanche papà. E ancora c'era Cassie Thomas, non voleva chiamarla Nan Blythe. A Nan pensare che Cassie Thomas era Nan Blythe creava un dolore inimmaginabile. Si sentiva come se fosse stata cancellata del tutto. Se non era Nan Blythe, lei non era nessuno, non poteva diventare Cassie Thomas. Ma Cassie Thomas la ossessionava. Per una settimana Nan fu tormentata da quella presenza. Un'orribile settimana durante la quale Anna e Susan davvero si preoccuparono per la bambina che non mangiava, non giocava e, come disse Susan, si trascinava e basta. Forse perché Dovi Johnson era andata a casa. Nan disse che non era per quello, disse che non era niente, si sentiva solo stanca. Papà la visitò, le prescrisse una medicina che Nan prese docilmente. Non era tanto cattivo come olio di ricino, ma perfino l'olio di ricino non significava nulla in quel momento. Non c'era nulla che significava qualcosa, tranne Cassie Thomas. E quel terribile dilemma che era emerso nella confusione della sua mente si era completamente impossessato di lei. Cassie Thomas non aveva i suoi diritti. Era giusto che lei, Nan Blythe, Nan, si aggrappava affannosamente alla sua identità, avesse tutto quello che a Cassie Thomas era stato negato e che sarebbe stato suo di diritto? No, non era giusto. Nan era disperatamente sicura che non fosse giusto. Da qualche parte in Nan c'era molto forte il senso della giustizia e della correttezza e diventava crescente in lei la convinzione che era giusto che a Cassie Thomas dovesse essere detto. Dopotutto, forse nessuno si sarebbe preoccupato molto. Mamma e papà all'inizio naturalmente sarebbero rimasti un po' turbati, ma non appena saputo che Cassie Thomas era figlia loro, tutto il loro amore sarebbe andato a lei e lei, Nan, non avrebbe contato più nulla per loro. Mamma bacerà Cassie Thomas e canterà per lei nei crepuscoli d'estate. Canterà la canzone preferita di Nan. Ho visto un veliero in mezzo al mare. Oh, era tutto pieno di cose belle e per me deve arrivare. Nan e Dee avevano spesso parlato del giorno in cui quella nave sarebbe arrivata, ma ora le belle cose, e comunque solo la sua parte, sarebbe andata a Cassie Thomas. Cassie Thomas avrebbe preso la sua parte come regina delle fate nella prossima recita della scuola domenicale. Indossato la sua splendida fascia di lustrini argentati. Oh, quanto Nan aveva aspettato quel momento. Susan avrebbe fatto le sfogliatelle di frutta per Cassie Thomas e le fusa del gatto sarebbero state per lei. Avrebbe giocato nel boschetto degli aceri con le bambole di Nan, nella casetta dei giochi ricoperta di muschio di Nan e dormito nel suo letto. Piacerebbe a Dee. A Dee piacerebbe che si Thomas come sorella. Arrivò un giorno nel quale Nan seppe che non poteva più sopportare la situazione. Doveva fare ciò che era giusto. Sarebbe andata giù a Harbour Mouth a raccontare la verità ai Thomas. Loro poi potevano dirlo a mamma e papà. Nan sentiva che quello proprio lei non poteva farlo. Nan si sentì un po' meglio quando arrivò a quella decisione, ma molto, molto triste. Cercò di mangiare un po' a cena perché sarebbe stato l'ultimo pasto che avrebbe fatto a Ingleside. Io chiamerò sempre la mamma, mamma, pensò Nan disperatamente. E non voglio chiamare Sei Dita Jimmy papà. Mi limiterò a dire Mr. Thomas con molto rispetto. Sicuramente non avrà niente da ridire. Ma qualcosa la soffocò. Alzando lo sguardo, lesse olio di ricino negli occhi di Susan. Ancora poco, Susan pensò, poi non sarebbe stata lì all'ora di andare a letto per berlo. Cassie Thomas avrebbe dovuto inghiottirlo. Questa era l'unica cosa che Nan non invidiava a Cassie Thomas. Nan andò via subito dopo cena. Doveva andare prima che fosse buio o le sarebbe mancato il coraggio. Uscì con il suo vestito da gioco in percale a quadretti. Non osò cambiarlo perché la mamma o Susan avrebbero chiesto il perché. Inoltre tutti i suoi bei vestiti in realtà appartenevano a Cassie Thomas, ma indossò il grembiule nuovo che le aveva fatto Susan, un grembiule tanto elegante e leggermente smerlato. Gli smerli erano bordati in rosso turco. Nan adorava quel grembiule. Sicuramente Cassie Thomas non si sarebbe risentita più di tanto. Camminò fino al villaggio, lo attraversò, passò la strada del molo e scese la strada del porto. Una piccola cavalleresca indomita figura. Nan non aveva idea di essere un'eroina, al contrario provava una grande vergogna di se stessa perché era così difficile fare ciò che era giusto e leale, così difficile trattenersi da non odiare Cassie Thomas, così difficile trattenersi da aver paura di Sei Dita Jimmy, così difficile trattenersi dal correre indietro, scappare a casa, a Ingleside. Era una sera nuvolosa. Al largo sul mare c'era una pesante nube nera simile a un grande pipistrello scuro. Lampi intermittenti giocavano sul porto e al di là delle colline boscose. Il gruppo di case dei pescatori in Harbour Mouth giaceva ricoperto di una luce rossa che scappava da sotto la nuvola. Pozzanghere d'acqua qua e là brillavano come grandi rubini. Una nave silenziosa con vele bianche lentamente oltrepassava le oscure e nebbiose dune, obbedendo al misterioso richiamo dell'oceano. I gabbiani lanciavano strani lamenti. A Nan non piaceva l'odore delle case dei pescatori, né quei gruppi di bambini tutti sporchi che stavano giocando, lottando e urlando sulla sabbia. La guardarono con curiosità quando Nan si fermò per chiedere dove era la casa di Sei Dita Jimmy. «Quella laggiù», disse un ragazzo indicando. «Che affari hai con lui?» «Grazie», disse Nan girandosi dall'altra parte. «Quelle sono le maniere che hai?» urlò una ragazza. «Troppo boriosa per rispondere a una domanda civile?» Il ragazzo si fermò di fronte a lei. «Vedi la casa dietro quella dei Thomas?» disse. «Dentro c'è un serpente marino. Ti chiudo lì dentro se non mi dici per quale motivo cerchi Sei Dita Jimmy.» «Su via, Miss Superbia!» disse la bambina più grande con sarcasmo. «Sei del Glen e tutti gli abitanti del Glen pensano di essere persone molto importanti. Rispondi alla domanda di Bill.» «Se non fai attenzione», disse un altro ragazzo, «io devo annegare alcuni gattini ed è molto probabile che faccia saltare anche te.» «Se hai un decino con te, ti vendo un dente», disse sogghignando una ragazza dalle sopracciglia nere. «Me l'hanno estratto ieri.» «Io non ho un decino e il tuo dente non mi sarebbe di alcuna utilità», disse Nan facendosi un po' coraggio. «Lasciatemi sola.» «Oh, stai zitta», disse la ragazza dalle sopracciglia nere. Nan iniziò a correre. Il ragazzo del serpente di mare sporse un piede e la fece inciampare. Cadde dell'intera lunghezza sulla sabbia ondulata dalla marea e tutti scoppiarono a ridere. «Mi sembra che non tieni la testa così in alto ora», disse la ragazza dalle sopracciglia nere. «Ti pavoneggiavi con i tuoi smerli rossi?» Poi qualcuno esclamò: «Ehi, c'è la barca di Blue Jack che sta arrivando!» e tutti corsero via. La nube nera si era abbassata e ogni pozzanghera rubino ora era grigia. Nan si sollevò. Il suo vestito era impiastrato di sabbia e le calze piene di sabbia, ma era libera dai suoi aguzzini. In futuro sarebbero stati quelli, i suoi compagni di giochi. Non doveva piangere, non doveva. Salì i scalini sgangherati di legno che portavano fino alla porta di Sei Dita Jimmy. Come tutte le case ad Harbour Mouth, quella di Sei Dita Jimmy era sollevata su dei pali di legno per essere fuori dalla portata delle maree troppo alte. Sotto lo spazio vuoto era riempito con miscugli di piatti rotti, barattoli vuoti, vecchie nasse per aragoste e ogni tipo di rifiuti. La porta era aperta e Nan vide una cucina che così in vita sua non aveva mai visto. Il pavimento spoglio era tutto sporco, il soffitto era macchiato e affumicato, il lavandino era pieno di piatti sporchi. Su un vecchio tavolo di legno traballante c'erano i resti di un pasto e sopra pullulavano orrende, enormi mosche nere. Una donna con una massa disordinata di capelli grigi era seduta su una sedia a dondolo, allattando una bambina grigia di sporcizia. «Mia sorella», pensò Nan. Non c'era segno di Cassie o di Jimmy Sei Dita, per quest'ultimo Nan si sentì contenta. «Chi sei? E cosa vuoi?» disse la donna piuttosto sgarbatamente. Non l'aveva invitata, ma Nan entrò. Fuori cominciava a piovere e un tuono aveva fatto tremare la casa. Nan era cosciente che doveva dire il perché fosse lì prima che le mancasse il coraggio, o si sarebbe voltata scappando da quella terribile casa, da quella terribile bambina, da quelle terribili mosche. «Voglio vedere Cassie, per favore», disse. «Ho qualcosa di importante da dirle.» «Davvero? Però», disse la donna, «deve essere importante a giudicare dalla tua taglia.» «Beh, Cass non è in casa. Suo padre l'ha portata a Upper Glen per un giro e con questo temporale che è arrivato non si può dire quando tornerà. Siediti lì.» Nan si sedette su una sedia rotta. Sapeva che la gente di Harbour Mouth era povera, ma lei non aveva mai visto nessuno in quelle condizioni. Mrs. Fitch, giù al Glen, era povera, ma la sua casa era pulita e ordinata come quella di Ingleside. Certo, tutti sapevano che Jimmy Sei Dita si beveva tutto quello che guadagnava, e questa sarebbe stata la sua casa d'ora in poi. comunque cercherò di pulire a fondo, pensò tristemente Nan. Ma il suo cuore era come di piombo. La fiamma che l'aveva spinta verso quell'elevato sacrificio era scomparsa. Per quale motivo vuoi vedere Cass? Chiese curiosa la signora Sei Dita, mentre asciugava la faccia sporca della bambina con un grembiule ancora più sporco. Se è per quella recita della scuola domenicale, lei non ci può andare, e su questo non si discute. Non ha uno straccio decente, come posso fare per dargliene uno? Ti chiedo. Oh no, no, non si tratta del concerto, disse Nan depressa. Poteva anche raccontare a Mrs. Thomas tutta la storia, comunque doveva saperlo. Sono venuta a dirle, per dirle che lei è me e io sono lei. Forse si poteva perdonare alla signora Sei Dita di considerare quel discorso un po' strambo. Oh, devi essere tocca, disse. La miseria, cosa vuoi dire? Nan alzò la testa. Il peggio era ormai passato. Voglio dire che Cassie e io siamo nate la stessa notte e la balia ci ha scambiate perché voleva fare un dispetto alla mia mamma e Cassie deve vivere a Ingleside, avendone tutti i vantaggi. Quest'ultima frase l'aveva sentita dalla maestra della scuola domenicale, ma Nan pensò che fosse un finale dignitoso a un discorso un po' zoppicante. La signora Sei Dita la fissò. Sono pazza io o lo sei tu? Quello che hai detto non ha alcun senso. Chi ti ha raccontato una simile stupidaggine? Dovi Johnson. La signora Sei Dita gettò indietro la testa arruffata e rise. Poteva essere sporca e trasandata, ma aveva una risata molto attraente. Oh, dovevo immaginarlo. Ho lavorato tutta l'estate per sua zia. Quella bambina è una peste, ma non fa che pensare a come prendere in giro la gente. Beh, piccola miss, quale che sia il tuo nome, è meglio che non credi a tutte le storie di Dovi, o lei ti farà girare come una trottola. Vuol dire che non è vero? Ansimò Nan. Ma non è per niente probabile. Santo cielo, devi essere piuttosto ingenua a credere una cosa del genere. Cass deve essere un buon anno più vecchia di te? Ma poi chi diamine sei? Io sono Nan Blythe. Oh, che bel pensiero! Lei era Nan Blythe. Nan Blythe? Una delle gemelle di Ingleside? Ah, ecco, mi ricordo la notte in cui sei nata. Ero andata a Ingleside per fare una commissione. Non ero ancora sposata con Sei Dita. Che pena averlo fatto. E la madre di Cass era viva e in salute, con Cass che stava cominciando a camminare. Sembri la madre di tuo padre. Era proprio lì, quella sera, pavoneggiandosi orgogliosa per le sue nipoti gemelle. E pensare che hai tanto poco criterio che vai a credere a una storia sbilenca come questa. Io sono abituata a credere alle persone, disse Nan, alzandosi con una certa maestosità, però troppo immersa in un delirio di felicità da usare un tono troppo deciso, così da farla apparire sgarbata alla signora Sei Dita. Beh, è un'abitudine che faresti bene a toglierti in un mondo come questo, disse cinicamente la signora Sei Dita. E smettere di frequentare bambine alle quali piace ingannare la gente. Siediti, figliola, non puoi andare a casa fino a quando non smette di piovere. La pioggia è battente, una notte nera come la pece. Ehi, se n'è andata. Nan era già sparita nell'acquazzone. Niente che non fosse stato il giubilo provocato dalle assicurazioni della signora Sei Dita avrebbe potuto farla uscire in una serata come quella. Il vento la sferzava, la pioggia colava lungo il corpo, i tremendi tuoni le facevano pensare che il mondo si sarebbe spaccato in due. Solo il bagliore incessante, blu ghiaccio del fulmine le mostrava la strada. Continuamente scivolava e cadeva, ma alla fine, traballando, fradicia, entrò nella sala, a casa, a Ingleside. La mamma corse e la prese tra le braccia. Tesoro, che spavento ci hai dato! Dove sei stata? Oh, spero solo che Jem e Walter non muoiano di polmonite sotto una tale pioggia per cercarti, disse Susan, nella cui voce c'era tutta la sua tensione. Nan era quasi senza fiato. Ansimando, riuscì solo, mentre era tra le avvolgenti braccia della mamma, a dire: Oh, mamma, io sono davvero io non sono Cassie Thomas e non sarò mai nessun altro tranne che me. Povera cocchina, sta delirando, disse Susan. Deve aver mangiato qualcosa che le ha fatto male. Anna lavò Nan e la mise a letto prima di lasciarla parlare. Poi ascoltò l'intera storia. Oh, mamma, io sono davvero tua figlia! Ma certo, tesoro, come hai potuto pensare una qualsiasi altra cosa? Oh, mamma, mamma, io non ho mai immaginato che Dovi mi raccontasse una bugia. Non Dovi, mamma, si può non credere a qualcuno? Jenny Penn raccontò a Dee terribili storie. Sono solo due ragazze tra tutte le bambine che hai conosciuto, cara. Nessuno dei tuoi compagni di gioco ti ha mai detto cose che non fossero vere. Ci sono persone di quel genere in tutto il mondo, sia adulti che bambini. Quando sarai un po' più grande sarai in grado di separare il grano dall'olio. Mamma, vorrei che Walter e Jem e Dee non venissero a sapere quanto sono stata sciocca. Non ce ne sarà bisogno. Dee è andata a Lowbridge con papà e i ragazzi sapranno solo che ti sei allontanata troppo a lungo alla strada per Arbor e ti ha sorpreso il temporale. Sei stata sciocca a credere a Dovi, ma sei stata una splendida e coraggiosa ragazzina mentre andavi a offrire ciò che hai pensato fosse giusto alla povera piccola Cassie Thomas. La mamma è orgogliosa di te. Ah, la tempesta era finita. La luna guardava dall'alto in basso un tranquillo e felice piccolo mondo. Oh, sono così contenta che io sono ancora io, che io sono proprio io, fu l'ultimo pensiero di Nan prima di addormentarsi. Gilbert e Anna entrarono più tardi a contemplare i piccoli visi addormentati che stavano così dolcemente vicini l'uno all'altro. Dee dormiva con gli angoli della sua risoluta piccola bocca ben serrata, mentre Nan si era addormentata sorridente. Gilbert aveva sentito la storia ed era così arrabbiato che era veramente un bene per Dovi Johnson stargli distante una trentina di miglia. Ma ad Anna rimordeva la coscienza. Avrei dovuto scoprire qual era il motivo della sua inquietudine, ma ero troppo occupata con altre faccende durante quest'ultima settimana, cose veramente di poca importanza in confronto all'infelicità della bambina. Pensa a quello che il nostro piccolo tesoro ha dovuto soffrire. Si inginocchiò penitente sopra di loro. Erano ancora sue, completamente sue, della mamma, per amarle, proteggerle. Ancora sarebbero andate da lei per ogni amore e ogni dolore dei loro cuoricini. Per ancora alcuni anni anelati sarebbero state sue, ma poi Anna tremò. La maternità era tanto dolce, ma anche tanto terribile. Mi chiedo che cosa porterà loro la vita, sussurrò. Beh, almeno speriamo fiduciosi che ognuna di loro trovi un buon marito come ha avuto la loro mamma, disse Gilbert scherzosamente. Fine.